Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Come non ricordarlo del resto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, doveroso, la leggenda del rock e non solo del rock, perché David Bowie con tanti generi si è confrontato, anche generi sessuali e abbigliamento, ed è stato un vero sperimentatore a tutto tondo. Oggi sono arrivati omaggi per ricordarlo dalla Casa Bianca a Madonna, fino al Vaticano, che persino ha detto la sua particolare sobrietà, che è un modo davvero peculiare di ricordarlo, visto che, diciamo, della sobrietà non ha fatto proprio la sua cifra, però è un modo questo originale effettivamente dell'Osservatore Romano per definirlo. Ne parleremo lungamente di David Bowie stasera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Questo è Life on Mars, almeno la mia canzone preferita, voi ne avrete altre. Qual è il vostro ricordo infatti del Duca Bianco, del Marziano del Rock? Ognuno ha la definizione, ne ha avuto tante definizioni. 349-238-6666 il numero dei vostri messaggi, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook, come sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Ovviamente ci occuperemo di moltissime altre cose, della tensione alta che continua a Colonia in Germania. Poco fa c'è stato anche, adesso stavo controllando, un attacco degli hooligans, ci sono stati degli incidenti, poi vi aggiornerò man mano. Torneremo a parlare anche di Quarto, poi è stato assegnato il Pallone d'Oro, anche se era, diciamo, un nome scontato colui che l'ha vinto. Voi allora fate pure uso di Effetto Notte e del numero per i messaggi SMS 349-238-6666 per i vostri particolari, personali ricordi che avete di David Bowie. E io intanto vi racconto, come sempre, prima di passare poi con gli ospiti ad approfondire vari argomenti, al riassunto della giornata. Addio David Bowie, il Duca Bianco, Marziano del Rock, se n'è andato a 69 anni, omaggi per ricordarlo dalle star come Madonna al Vaticano. Politica italiana, sì della Camera al disegno di legge Boschi sulle riforme costituzionali, ora il testo torna al Senato. Iraq, l'ISIS rivendica un attentato in un centro commerciale, poco fa in un attacco a un caffè a nord-est di Baghdad sono morte 20 persone. Siria, arrivano i primi aiuti umanitari. Le molestie sessuali di massa in Germania, 19 gli indagati, gli hooligan lanciano una caccia all'uomo, i musulmani denunciano minacce, la cancelliera Merkel dice è inaccettabile. Terra dei fuochi, drammatici dati dell'Istituto Superiore di Sanità, più tumori e più morti in quelle zone ed eccesso di casi anche tra i bimbi di un anno. Il caso del comune di Quarto, il Movimento 5 Stelle chiede alla sindaca un passo indietro ma le ribadisce, io sono parte lesa e non mi dimetto. Golden Globe, trionfa Morricone, Tarantino lo paragona a Mozart, miglior film è The Revenant. Pallone d'oro, quinto titolo per l'argentino Messi. Iniziamo quindi, come abbiamo iniziato proprio la puntata di Effetto Notte, della scomparsa di David Bowie, leggenda della musica internazionale, malato di tumore, morto a 69 anni, che aveva compiuto lo scorso 8 gennaio e aveva festeggiato questo compleanno con l'uscita del suo ultimo album Black Star. Gli hanno reso omaggio, vi dicevo, oggi star come Madonna, come Boy George, ma anche la Casa Bianca e il Vaticano attraverso l'Osservatore Romano. Poi lo ricorderemo con il decano dei critici musicali italiani, ma invece restiamo sulla politica italiana, con la Camera che ha approvato il disegno di legge Boschi sulle riforme costituzionali. Il testo, come adesso ci racconta Betta Fiorito da Roma, torna al Senato. Ciao Elisabetta. Beh, direi così, Roberta, dalla vita su Marte, Life on Mars, noi atterriamo. Non so quanto tristemente. Molto tristemente, in una bellissima piazza romana che ospita però il Parlamento, che tanto ben amato non è, per dire che c'è stata una maggioranza schiacciante sulle riforme in attesa di conoscere il voto dei cittadini in autunno, e questo è il tweet. Perché ci sarà il referendum, vero? A ottobre ci sarà il referendum. Sì, del Premier Matteo Renzi su subito dopo l'approvazione a Montecitorio delle riforme costituzionali. Ricordiamo i numeri: 367 sì, 194 no e 5 astenuti. Il provvedimento, ricordiamo, contiene la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo paritario. Che vuole dire? Vuol dire che si istituisce un Senato delle regioni che ha 100 senatori e non più 315. Il testo adesso però deve tornare al Senato per essere approvato così com'è dopo 3 mesi e alla Camera per essere approvata così com'è, perché questa è la Costituzione, si sta cambiando la Costituzione, la nostra carta costituzionale, ed è una Costituzione rigida secondo l'articolo 138 e quindi ha una modifica molto lenta, molto strutturata, per evitare appunto dopo la dittatura i nostri padri costituenti, no, che si potesse fare qualche colpo di Stato. Non sono mancate ovviamente, come succede in questi frangenti, le discussioni in aula, soprattutto durante l'intervento di Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha esposto in aula cartelli tricolori, ha risposto poi Matteo Orfini del PD, e però dobbiamo ricordare quello che è successo, cioè Forza Italia intanto entra a far parte del comitato dei no e raggiunge quota di 126 parlamentari necessari a chiedere il famoso referendum e anche Gianni Cuperlo della sinistra Dem dice il referendum non deve essere un referendum praticamente sul operato del governo, ma deve essere un referendum sul merito. Insomma, che cosa vuol dire? Che a un certo punto Matteo Renzi indirà questo referendum, e siccome è un referendum costituzionale, è un referendum confermativo, non c'è bisogno del quorum. E quindi praticamente gli elettori che andranno a votare decideranno se sì o no quello che vogliono fare, però non si deve raggiungere 50. Non c'è bisogno di qualunque numero di votanti, voti, scusami, se c'è di parole, vale un sì o un no, giusto? Sì, certo, e questo è già successo anche per bocciare quello lì che era stato il referendum, per esempio, del centrodestra. Nel frattempo alla 7 sta parlando il ministro Maria Elena Boschi. Forse riusciamo a sentire un passaggio, visto che l'hai citata, Betta. Sentiamo un attimo la Boschi. Un altro passaggio importante, mi sembra un buon modo per iniziare il nuovo anno, tra l'altro anche con una maggioranza molto ampia alla Camera, addirittura superiore a quella dell'ultima volta, quindi i numeri sono ulteriormente aumentati. Io credo che sia un modo appunto per cominciare un anno importante per le riforme, non soltanto le riforme costituzionali, però immaginiamoci 2 anni fa, il gennaio del 2014, ce lo ricordiamo tutti, riforme costituzionali che erano sostanzialmente bloccate, la legge elettorale da approvare. Oggi abbiamo riforma della pubblica amministrazione approvata in Parlamento, la riforma della scuola, la legge elettorale, molte misure di carattere economico. Questa è la soddisfazione della ministra Boschi a 8,5, Betta Fiorito. Sì, poi la Boschi ha dovuto parlare anche però del famoso scandalo di Banca Etruria. Lei ha ribadito che se suo padre sarà indagato non ci saranno impatti né su di lei né sul governo. Però poi fondamentalmente nessuno un po' ci crede, ecco, questo va detto poi. E ha parlato anche di quarto del Movimento 5 Stelle, insomma un lungo intervento in cui è apparsa, tanto per fare un po' di gossip visto l'orario, in look total black, quindi un po' ha dismesso questi panni di fatina, no? È andata lì a difendere il governo, il suo operato, la bellissima prova secondo lei del governo, perché è passato questo passaggio delle riforme costituzionali, però poi anche a dire che non si dimetterà se il padre fosse inquisito, perché le colpe dei padri non ricadono sui figli, neanche sulle figlie. Grazie Betta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Allora saluti a Marte, qui siamo sempre a Montecitorio. Con i piedi ben piantati per terra, terra in certi casi, terra soltanto una volta, secondo i punti di vista. Insomma, comunque avete sentito, citava anche Elisabetta Fiorito il caso di Quarto, poi torneremo a parlarne, però appunto i 5 Stelle sono nel mirino per questa vicenda. Un fronte giudiziario ancora tutto da chiarire, quello che riguarda il sindaco di Quarto. La Capuozzo non è indagata, fanno sapere gli inquirenti. Ha tenuto tuttavia una condotta poco lineare e sicuramente da approfondire, scrive il PM Woodstock nel decreto di perquisizione che ha portato i carabinieri sia in comune che a casa del sindaco a far discutere un'intercettazione intanto del 16 dicembre. Reggo tutto, ma non finire in galera per colpa di altri, direbbe la Capuozzo. Sulla vicenda dell'appalto che riguarda la rete fognaria, il comune di Quarto ha agito correttamente, commenta quindi il presidente anticorruzione Cantone. Altro fronte, quello politico. Il Partito Democratico non allenta la presa sul Movimento 5 Stelle. Sono nel caos e non riescono a dire la verità, scrive la Picerno. Dai grillini la replica del deputato Toninelli. Abbiamo chiesto alla sindaca Capozzo di dimettere. Se la stessa cosa, ai noi, non sta facendo il Partito Democratico, che è presente in tutta Italia, solo nell'ultimo anno 83 indagati, che dovrebbe tutti far dimettere. Dimissioni della Capozzo che sarebbero ormai inevitabili, ma rinviata a domani. Serve lo scioglimento del comune di Quarto, non le dimissioni del sindaco, commenta da Forza Italia Brunetta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci all'estero, in Iraq, dove l'ISIS rivendica un attentato al centro commerciale di Baghdad con 50 morti e 18 feriti. E poco fa la notizia anche di un altro attacco in un caffè a Mikdaya, a nord-est di Baghdad, dove sono morte 20 persone. E proprio oggi intanto sono arrivati i primi aiuti in Siria, nella città da giorni sotto assedio. I soccorsi sono arrivati alla fine. Due convogli umanitari organizzati dalla Mezzaluna Rossa sono giunti per portare cibo e medicine a tre località siriane assediate. Madaya, popolata in maggioranza da sunniti e circondata da forze governative del movimento sciita libanese Hezbollah, e Fua e Kafraya, nella provincia nord-occidentale di Idlib, dove la popolazione sciita è assediata dalle forze ribelli sunnite. Madaya, coi suoi 40.000 abitanti, era la città simbolo della guerra, coi residenti intrappolati da ormai 6 mesi e senza aiuti da ottobre. L'ONU aveva denunciato di aver ricevuto rapporti credibili su decessi per fame e stenti. A Fua e Kafraya ci sarebbero invece un totale di altre 20.000 persone intrappolate. Un totale di 60 tir sono partiti complessivamente per i tre villaggi, una volta raggiunta l'intesa per aiutare sia Madaya nelle mani dei ribelli e sia gli altri due villaggi feudi invece del governo di Assad. In particolare, le immagini dei bambini malnutriti e ormai ridotti a pelle e ossa avevano fatto pochi giorni fa il giro del mondo, scatenando un'ondata di indignazione nell'opinione pubblica mondiale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora alta la tensione, vi dicevo, in Germania dopo i fatti di Capodanno. Le molestie di massa alle donne, sarebbero per il momento 19 gli indagati. Intanto si apprende che gli hooligan, che hanno lanciato oggi una caccia all'uomo contro i musulmani, hanno provocato dei disordini a Lipsia. Poi dopo cercherò meglio questa notizia. E intanto i musulmani tedeschi denunciano minacce, mentre la cancelliera Merkel dice che tutto questo è inaccettabile. Poi più tardi ci colleghiamo con la nostra inviata. Adesso invece spostiamoci sulle questioni italiane, la terra dei fuochi, drammatici dati dell'Istituto Superiore di Sanità, più tumori e più morti in quelle zone, in Campania, ed eccesso di casi anche tra i bimbi di un anno, mortalità, ricoveri e tumori in eccesso rispetto alla media regionale della Campania. Certificarlo appunto è l'Istituto Superiore di Sanità nell'aggiornamento del rapporto sulla terra dei fuochi per lo smaltimento illegale dei rifiuti, dati noti da tempo agli esperti ma mai rivelati dalla regione Campania, così spiega Antonio Marfella, oncologo dell'Istituto dei Tumori Pascal di Napoli. Il registro tumori e l'osservatorio epidemiologico della regione Campania sono attivi, operativi e pagati dal 1993 e dal 1995, ma per avere questi dati abbiamo dovuto attendere l'Istituto Superiore di Sanità, che ha avuto un ordine specifico all'interno della legge per terra dei fuochi, che abbiamo ottenuto con quelle violente, con quelle terribili campagne di piazza, e perché non avevamo nessun riscontro locale e siamo stati sempre, diciamo, noi purtroppo tecnici eravamo consapevoli del problema e non riuscivamo a indurre, a obbligare i referenti sanitari locali a prendere posizione. E adesso parliamo di cronaca e spostiamoci a Firenze. Mentre sono al vaglio i filmati delle telecamere di vigilanza che potrebbero aver filmato l'assassino e mentre si attendono gli esiti dell'autopsia, gli investigatori sulla morte di Ashley Olsen hanno un'unica certezza: la donna conosceva il suo assassino. Nessun segno di scasso è infatti stato trovato sulla porta del piccolo appartamento nel cuore della zona della Movida di Firenze. Il cane della vittima inoltre non ha abbaiato, cosa che di norma faceva all'arrivo in casa di una persona sconosciuta. Nessuno del resto ha sentito rumori o grida provenire dall'appartamento. La 35enne americana, stando ai primi rilievi, è come se non si fosse opposta allo strangolamento che l'ha uccisa. L'alibi del fidanzato, il pittore fiorentino 42enne che sabato pomeriggio ha ritrovato il corpo, regge. Esclusa l'ipotesi della rapina, gli investigatori stanno vagliando altre piste attraverso il PC della ragazza, visto che il suo cellulare ancora non si trova, e le testimonianze degli amici. La donna, originaria della Florida, amante dell'arte, a Firenze da 3 anni, è stata vista l'ultima volta dalle amiche la notte dell'Epifania in un locale della zona, il Monte Carla. Aveva bevuto molto, ma alle 3 del mattino non ha voluto rientrare con noi, hanno riferito le testimoni. Forse chi l'ha uccisa precisa. Potrebbe essere stata una persona incontrata nel locale, anche perché gli investigatori sono convinti di essere davanti ad un delitto non premeditato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, adesso vedo questo aggiornamento che riguarda la Germania. Incidenti a Lipsia, con decine di fermi dopo i fatti di Colonia. Secondo la TV regionale MDR, un gruppo di neonazi ha attaccato diversi negozi nel quartiere Connewitz, frantumando le vetrine. La polizia ha riferito che si tratta di hooligan legati alle tifoserie di due squadre locali. In città si sta svolgendo anche una manifestazione anti-immigrati di Pegida, che è questo movimento di estrema destra. Poi, vi dicevo, ci collegheremo direttamente con la nostra inviata in Germania. Per il cinema, questa notizia dei Golden Globe: trionfo a Los Angeles per il film The Revenant, miglior film drammatico, miglior attore DiCaprio, miglior regista. E intanto Ennio Morricone, nostro grande compositore italiano internazionale, premiato per le musiche di Hateful Eight di Tarantino, che lo ha paragonato ai grandi del passato come Mozart e Beethoven. Sentite cosa ha detto Tarantino. As far as I am concerned, is my favorite composer. And when I say favorite composer, I don't mean movie composer, that ghetto. I'm talking about Mozart. I'm talking about Beethoven. I'm talking about Schubert. That's who I'm talking about. E per chiudere, una notizia extra, abituiamoci a qualche notizia extra da ora in poi. Ormone della longevità allunga la vita del 40% nei topi. È stato svelato questo meccanismo dell'azione di questo ormone particolare, questa molecola presente in tutti i mammiferi, esseri umani compresi. Agisce contrastando l'indebolimento delle difese immunitarie dovuto all'avanzare dell'età. La scoperta è pubblicata dall'Università di Yale sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze. In futuro cosa potrà fare? Potrà aprire la strada a nuove terapie per rinforzare il sistema immunitario degli anziani, dei malati di tumore, per combattere diabete e obesità. Speriamo che non siano le solite cose grandiose, per carità, grandi ricerche, lanciate lì e poi per un po' non se ne sa più niente. Per il momento però mi fermerei qui, mentre voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Oggi vi chiedo qual è il vostro ricordo di David Bowie. Per esempio Beatrice è d'accordo con me, insomma, la mia canzone preferita è Life on Mars. E poi invece Carla dice David Bowie che canta Little Drummer Boy con Bing Crosby. Guido dice il mio primo concerto a Torino, lo Spyderglass Tour a 17 anni, questi sono i vostri ricordi. Alessandra, avevo 12 anni e ho sentito la radio Moon Age Daydream, da lì in avanti è stato solo il Duca Bianco, ci mancherà. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre in compagnia di David Bowie, cerchiamo di mantenere un po' il ricordo lungo tutta questa puntata di Effetto Notte. Tra poco ne parleremo con il più famoso dei critici musicali italiani. E ancora vedo i vostri ricordi. C'è per esempio questo ascoltatore che dice due ricordi di Bowie. Iris che suona mentre Christian F. e i suoi amici corrono nella notte berlinese. Il film I ragazzi dello zoo di Berlino, se non sbaglio. E poi ancora Heroes in versione acustica con Bowie chitarra e tappino a corona sotto alla suola battere il ritmo in un concerto pro bimbi disabili. Ancora continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche quei messaggi al 349-238-6666. Mentre io, prima di passare al primo ospite, vi ricordo, visto che ci siamo lasciati per qualche secondo, quali sono le notizie più importanti della giornata. La Camera che approva le riforme costituzionali, poi dovrà ripassare il testo al Senato, poi di nuovo alla Camera. Parte intanto la battaglia referendaria che ci sarà a ottobre. Intanto si prepara il rush finale sulle unioni civili, si vota a fine gennaio, ma si sta cercando una mediazione. L'affido, la stepchild adoption e l'affido spaccano la maggioranza. E poi caos nel comune di Quarto vicino a Napoli, con la sindaca è stata perquisita la sua casa, ma non decide sulle dimissioni. Intanto i PM dicono la sua condotta non è stata lineare. E poi Colonia, la caccia all'uomo dopo le molestie sessuali di Capodanno, i musulmani denunciano minacce. Addio a David Bowie, ne abbiamo parlato e ne staremo per parlare adesso. Il Duca Bianco, trasformista del rock, morto di cancro a 69 anni. E l'allarme dell'Istituto Nazionale Superiore di Sanità della Terra dei Fuochi, con il tumore che uccide di più che in tutta la Campania, con un particolare allarme sui bambini. E poi il doppio attacco a Baghdad, oggi con almeno 40 morti. E l'ISIS rivendica gli attentati. Per il calcio, Messi quinto pallone d'oro. Beh, c'è l'imbarazzo della scelta per scegliere i brani di David Bowie, che oggi, anzi ieri in realtà è morto, ci ha lasciato a 69 anni, visto che ha avuto una carriera straordinaria che ha attraversato praticamente la scena musicale dagli anni 60 a oggi. Ma noi ce lo facciamo raccontare da Mario Luzzato Fegiz, critico musicale del Corriere della Sera, ma soprattutto, vi dicevo, decano dei critici musicali italiani, e sei il più famoso. Mario, buonasera. E sono anche coetaneo dell'artista, perché lui è nato l'8 gennaio 47 e io il 12 gennaio 47, cioè domani. Coincidenza, anche coincidenza. Con il mio nipotino, anche se è nato il 12 gennaio. Senti. Comunque, in effetti è molto difficile riassumere una carriera musicale che è composta, pensate, da 27 album in studio, 8 live, 47 raccolte, 111 singoli e 3 colonne sonore, quindi... Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ma Mario, tra l'altro, se tu lo dovessi raccontare, perché i più giovani, giovanissimi, no? Ogni volta, soprattutto quando uno ha il cosiddetto mostro sacro, la leggenda, il mito, come fai a raccontarlo a chi ne sa pochissimo, ha sentito magari qualche nota, ricorda il suo viso, ha visto qualche immagine di lui androgino, ma come lo racconti? Guarda, è difficile, perché ti dico cosa mi è successo intervistando Alessandra Amoroso 4-5 anni fa, e questo poi l'ho messo nel mio spettacolo Io Oggi Talent Show. Le dissi: sai che questa, una tua canzone ricorda Space Oddity di David Bowie? E lei mi rispose: chi è David Bowie? Cioè, non lo sapeva, Alessandra Amoroso. Ora mi sono detto, io mi sono detto per una che vuole farla cantante, non sapere chi è David Bowie non è un dramma, è una tragedia. Beh, effettivamente, via. Almeno il nome, almeno due cose. Sì, sì. Proprio ignorava completamente. Ignorava, ma ignorava anche Iannacci. E dunque, che vi devo dire? Questo era un artista poliedrico, eclettico, di straordinaria lucidità, che ha fatto un'operazione pazzesca, pur mutando gli stili. Quindi un po' una doccia scottese questo repertorio di cose facilissime, commerciali, e cose molto difficili. Ha colto i palpiti della coscienza collettiva, ha colto le ansie di fine millennio, e poi ha proposto anche la parte visiva della musica, no? Quindi è stato un decisamente un suo modo camaleontico, no? Però con una spiritualità, cioè anche se lui ogni tanto si vestiva in maniera molto provocatoria, voleva sottolineare il suo essere bisex, eccetera. Ha detto un padre nostro per Freddie Mercury, mi pare che fosse, o per un artista che era deceduto, richiama Dio in Space Oddity. Ecco, Space Oddity, che è una delle prime, rimane un capolavoro, secondo me, perché c'è tutta la solitudine di un... tutta la solitudine di nostra, in fondo, no? In questi spazi siderali così inospitali, una canzone in minore. Poi c'è da dire un'altra cosa: gli anni 70 sono molto diversi dai 60, nel senso che nei 60 c'è questa ubriacatura di utopia, si dice qui siamo belli, siamo fighi, abbiamo lavoro, lasciamo la famiglia, la comune, non c'è l'AIDS ancora all'orizzonte, la sifilide è stata domata, è arrivata la pillola, eccetera. Gli 70 vedono invece la prima crisi petrolifera e la prima disoccupazione, la prima grande crisi negli anni 70. E allora il panorama cambia completamente, no? Non siamo più giovani e felici, siamo disoccupati, siamo sfigati, abbiamo le domeniche a piedi e quindi ci facciamo del male, ci infiliamo gli spilloni, quindi il punk. Il punk è proprio una risposta alla crisi ed è il decennio dell'eroina, anche questo, di cui anche Bowie è stato una vittima. Poi a un certo punto se n'è ripulito, però, no? Anche lui ha voluto fare un po' il dannato e poi è riemerso da questo periodo. Dopo. Infatti si parla di rock decadente proprio nel periodo berlinese, quando lavora con Brian Eno, questo minimalismo musicale, che però poi viene completamente smentito nel successivo Let's Dance, che fa ballare il mondo intero, ecco. Insomma, è difficile da inquadrare, assolutamente. Io vi dico una delle cose che mi piace di più. Tra l'altro, uomo molto colto lui, oltre molto che intelligente. Molto colto, conosceva il latino. Io avevo il primo incontro a Roma negli anni 70 e rimasi folgorato dalla cortesia dall'intelligenza di questo signore. Dicevo, fra le varie cose che ha fatto nella sua vita, superevoli, ha fatto la colonna sonora di un film che si chiama Absolute Beginner. Sì. Quindi, chi sono gli Absolute Beginners? Gli Absolute Beginners sono i principianti assoluti, cioè quelli che hanno ancora la purezza dei progetti alle origini. No? E in questo stesso disco c'è una versione di Volare cantata in inglese. In inglese, cantata in italiano, naturalmente alla Stanley Olio, sento con sogno così non ritorni mai più. Quindi uno non si aspetta. Vabbè. Poi bisogna dire un'altra cosa, che il suo stile fa scuola. Fa scuola al punto che esistono vari complessi che lo copiano molto, che sono i Visage, gli Ultravox e gli Spandau Ballet anche. Insomma, che volete sapere altro? Diciamo che ha lanciato degli stili che poi molti hanno copiato ma non sono mai stati all'altezza, no? Essendo voi una radio che si chiama 24, sì. Vogliamo ricordare la storia dei Bond, dei Bowie Bond? Sì. Allora, lui fece lanciò un'emissione di Bond legati 55 miliardi, una roba del genere, ne ha venduti di questi, negli anni 80, ha lanciato un'operazione di Bowie Bond legati alle royalties. Ma pensa. Allora, questa operazione ha portato molta fortuna a David Bowie, un po' meno agli investitori, perché nel frattempo è arrivata il digitale e l'industria discografica ha cominciato a tirare le cuoia. Quindi chi ha investito nei Bowie Bond, non se l'è passata molto bene. Non se l'è passata molto bene. Non è stata una tragedia, però insomma è stata una minusvalenza non da poco. Ecco. Mario Luzzatto Fegiz, poi continuano i messaggi. Qualcuno dice la mia canzone preferita, dice Alberto, Visit North America, Claudio Heroes, Donata. Il mio ricordo di David Bowie è tutta la mia adolescenza. Maurizia, nessuno. Sono stufa di sentire tutto il giorno in tutte le emittenti la stessa notizia. Cosa rispondi a Maurizia che, per esempio, in un momento così, in cui diciamo comunque un personaggio così importante per la musica internazionale? Ma perché forse ha ragione, nel senso che muore un grosso personaggio di questo tipo, che l'anno scorso è stato e si fa tutta Daniele. L'apologia, tu dici? L'11 gennaio sarebbe stato un giorno nero, perché è lo stesso giorno in cui è morto De André, Fabrizio. Magari ha ragione, uno può sentire qualcos'altro. E che in effetti è un grosso personaggio che se ne va, voglio dire, quindi inevitabile ricordarlo, no? Sono tanti in tutto il mondo. Dicevo, persino tra l'altro scusa, sì. Richiamo l'attenzione su questa uscita di scena con questo video Lazarus, fatevi vedere lui che risorge, Lazarus. Ma no? È terribile, perché dice: ma come avrà fatto a ottenere questo effetto morto, questo viso aguzzo di chi sta per morire o già morto, no? E poi ti accorgi che questo l'ha girato dal vivo per il male che lo stava divorando. Cioè, un'uscita di scena così, ma chi l'ha mai vista? Fai un video che si chiama Lazzaro, risorgi, guardi al cielo, cioè ti è scritto nella maniera più clamorosa il suo epitafio. L'epitafio che poi mi pare dica: non so dove andrò, ma di sicuro da là non vi annoierò. Una cosa sì, del genere. Sicuramente è una, si spera che appunto che vada in paradiso, insomma, nonostante qualche piccolo difettuccio. Beh, via, penso. Senti, se pensiamo che l'Osservatore Romano si è scomodato per dire, per farne un ricordo, un omaggio, ha scritto: non è stato mai banale e ha elogiato la sua personalissima sobrietà. No? Che sì, mi sembra un po' azzardato. È vero, parlando di sobrietà. Così come ho paura che siano limitati, sono stati un po' traditi dal testo di Space Oddity, no? Che dice: torre di controllo a maggiore tom, comincia il conto alla rovescia, accendi i motori, controlla l'accensione e che Dio ti assista. Che diciamo è un modo di dire anche fra gli atei, no? Perché che Dio ti assista, sì, che lo non aiuti, è necessariamente una reazione di fede. Comunque sì, ha stupito anche me questa presa di posizione, ma comunque in generale ultimamente la Chiesa ama molto chi sperimenta dei percorsi, chi comunque sublima nell'arte le sue inquietudini, e i percorsi per arrivare a Dio sono infiniti. Questa e la santificazione di Bowie forse ce lo ricorda. Ecco. Senti, più laicamente invece il ministro degli esteri tedesco su Twitter ha scritto: addio David Bowie, grazie per averci aiutato a far cadere il muro di Berlino. E sì. di muri probabilmente ne ha fatti cadere tanti, no? Anche sui pregiudizi, anche gli stereotipi sessuali. Diciamo che è stato un innovatore. Sì, sì, sì. E lui fece un contrario, cosa ha fatto a Berlino nelle sue lunghe permanenze, nella fase in cui produsse Durid, Transformer, un successo mondiale, e poi lavorava con Brian Eno, eccetera. In effetti ha fatto anche un concerto davanti al muro che c'era ancora, e sicuramente un merito ce l'ha, ecco. Io devo dire che un altro che mi piace molto è The Man Who Holds the World, dove c'è una vocalità magica, un uso di sintetizzatori molto sapiente e delle canzoni abbastanza osè. Per esempio c'è una che si chiama The Wiz of a Circle, che è sulle perversioni sessuali. Poi ce n'è una che è sui disturbi mentali, si chiama All the Madmen. Poi ce n'è un'altra sullo sdoppiamento della personalità, si chiama Save Your Machine. E poi c'è una specie di apologia del nichilismo di Nietzsche in una canzone che si chiama The Superman. Temi che tra l'altro lui reitererà negli album successivi. Però ripeto, questo è un album pesantino. Poi ce ne sono altre che sono di una leggerezza, di una ballabilità, di una fruibilità. E in questo senso veramente è stato uno che ha fatto lo slalom fra gli stili più vari. Un istrione, insomma, ma è rimasto poi alla fine sempre se stesso. Grazie e Mario. Poi, vabbè, poi dopo il tanto bisessuale non sarà, perché si è sposato nelle donne. Si è sposato due volte, una volta con Angela e poi negli anni e 90. Con Ivan. Può darsi che abbia fatto i suoi esperimenti e poi abbia deciso per la una delle sue sponde. Venere nera e Luca Bianco, no? Sì. Bellissima modella nera, adesso insomma avrà anche la sua età. Ecco, ha scritto lei in un messaggio: a volte non conosci il vero valore di un momento, l'ha scritto ieri mi sembra, fino a che non diventa un ricordo. Che questa è una cosa che ci riguarda tutti, insomma, quindi una riflessione in più. Mario Lussato Fegiz, io ti ringrazio e grazie a te, buona musica. È stato esauriente. Estremamente esauriente. Grazie Mario. Bene, buon lavoro e ascolto con piacere Radio 24. Grazie, grazie mille. Buona serata e buona musica. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. E continuano i vostri ricordi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche se poi cambierò naturalmente temi, ci saranno altri ospiti, potete continuare anche attraverso i messaggi 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, anche David Bowie che ci accompagna con le sue canzoni lungo questa puntata, lo abbiamo ricordato poco fa con Mario Lussato Fegiz del Corriere della Sera, e voi continuate a ricordarlo, i vostri ricordi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con gli sms al 349-238-6666. Per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice, firmatevi anche con un nome d'arte, dice: Bowie ha interpretato il bellissimo film Furio, infatti è stato forse il migliore suo film, la cui colonna sonora è stato un successo strepitoso di Sakamoto, Ryuichi Sakamoto, grande compositore di colonne sonore per i film. Così ha ricordato questo ascoltatore anche che ha fatto diverse incursioni nel cinema, per esempio anche Gigolò oppure Miriam si sveglia a mezzanotte. Poi Enzo da Latina dice: certo, chiamarlo difettuccio, tutti i casini che ha fatto Bowie li avessi fatto io avrebbero creato un inferno solo per me. Poi un altro ascoltatore: era sobrio nel suo concedersi nell'età adulta, un po' di eccessi in giovinezza li perdona pure un cardinale, perché prima ricordavamo come lo ha omaggiato l'Osservatore Romano, il giornale quindi del Vaticano. Ma adesso ritorniamo anche sulle altre notizie, vi ricordo quali sono le più importanti. appunto l'addio a David Bowie, il Duca Bianco, Marziano del Rock, se ne è andato 69 anni, omaggi per ricordarlo dalle star come Madonna al Vaticano. Politica italiana, sì, della Camera, il disegno di legge Boschi sulle riforme costituzionali, ora il testo passa al Senato. Iraq, l'ISIS rivendica un attentato in un centro commerciale e poco fa in un attacco a un caffè a nord-est di Baghdad, complessivamente sono morte una quarantina di persone. Siria, arrivano i primi aiuti umanitari. Le molestie sessuali di massa in Germania, ne parleremo tra pochissimo, e poi la terra dei fuochi in Campania, drammatici dati dell'Istituto Superiore di Sanità, più tumori e più morti in quelle zone ed eccesso di casi anche tra i bimbi di un anno. Il caso del comune di Quarto, il Movimento 5 Stelle chiede alla sindaca un passo indietro, ma lei ribadisce: io sono parte lesa e non mi dimetto. Golden Globe trionfa Morricone, Tarantino lo paragona a Mozart, miglior film è The Revenant. Pallone d'oro, quinto titolo per l'argentino Messi. Dicevo, quindi, dei fatti di Colonia ci sono delle novità, la tensione resta alta, il paese è abbastanza in subbuglio. Ne parliamo con Raffaella Calandra, che è andata lì come nostra inviata in Germania. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Senti, le ultime notizie dicono che ci sono 19 indagati, tra cui 10 richiedenti asilo, e poi vedevo anche di questi disordini a Lipsia, non ho capito se sono direttamente collegati a questa vicenda, comunque sono degli hooligans, pare, sì, che abbiano provocato queste... Diciamo, esatto, sì. Diciamo che la conferma del coinvolgimento di 19 stranieri, 10 dei quali sono richiedenti asilo, nelle indagini per le molestie di massa della notte di Capodanno a Colonia ha provocato quello che molti migranti temevano, ossia un'autentica caccia allo straniero. L'hanno lanciata sul web dei gruppi di hooligans che sabato abbiamo visto sfilare insieme alle teste rasate di Pegida, la destra xenofoba, e già la questa notte a Colonia ci sono state delle aggressioni di chiara matrice xenofoba contro dei pakistani e un siriano, e questa stessa matrice sembrano avere questi incidenti a Lipsia, quindi in tutt'altra parte della Germania, ancora con degli hooligans, incidenti e scontri, attacchi contro dei negozi, presumibilmente negozi di stranieri, a quanto riferisce la TV tedesca. Che cosa sta succedendo in Germania? In Germania sta succedendo che è cambiato completamente il clima nei confronti dei migranti e sta prevalendo quella fazione anche più, che chiaramente e fortunatamente è ancora minimale, che dà voce però anche alla propaganda xenofoba di Pegida. Ad esempio, io sabato avevo incontrato e intervistato una di queste teste rasate, come sono apparse, Jorg, che forse possiamo sentire anche in sottofondo, di Muhammedana. Das ist eine barbarische Kultur. Che appunto, come sentite, definisce barbari i marocchini e tutti quanti i musulmani, che per loro appunto sono considerati barbari, e durante questa manifestazione continuavano a ripetere che devono esserci espulsioni e che l'unica sicurezza per i tedeschi poteva esserci se queste persone restavano alla distanza del mar Mediterraneo, non solo di un braccio, come aveva detto invece la sindaca di Colonia, Henriette Reka. Questa parte della destra xenofoba sta creando un clima pesante nei confronti dei migranti, nei confronti dei quali, devo dire, anche da parte delle persone più moderate c'è ora però una preoccupazione dopo i fatti di Colonia, e una preoccupazione rispetto agli alti numeri di migranti arrivati nel 2015, 1.100.000 persone esatto soltanto l'anno scorso. Così anche le persone che sono più disposte nei loro confronti, come un'anziana signora che ho incontrato davanti al campo profughi di Ercole Strasse a Colonia, dove era arrivata per distribuire bambole e giacche di pelle, lei stessa ci diceva che sono troppi. Forse la possiamo anche ascoltare. Ecco, ci racconta che appunto dal cofano della macchina queste giacche di pelle e bambole che sono andate subito a Ruba. Quindi da darle ai rifugiati, le ha portate per gli immigrati, insomma. Esatto. Ha portato a questi rifugiati, molti dei quali arrivano praticamente con i pantaloncini corti e con i sandali, così come sono scappati dal loro paese di origine e si ritrovano in queste città tedesche dove fa ben più freddo, ora sta arrivando davvero l'inverno, ed è una espressione di questa Germania che li aveva davvero accolti. Sul muro di questo campo profughi si ancora si legge la scritta Willkommen, benvenuti, che si ritrova un po' dappertutto, devo dire, nei centri per migranti. purtroppo però la notte di Capodanno, con i gravi disordini che ci sono state, le molestie soprattutto nei confronti delle donne, che ormai le cui denunce crescono esponenzialmente, ha cambiato davvero tutto e ha cambiato la Stimmung, direbbero i tedeschi, sia l'atmosfera, la sensazione, il comportamento nei confronti degli stessi, certo, migranti, e da cui forse anche questi attacchi xenofobi nei confronti di alcuni stranieri. È stato purtroppo un terribile autogol da parte di questi immigrati che hanno compiuto queste cose odiose nei confronti delle donne, anche appunto per, no, diciamo, confermando i pregiudizi di molti, di questa disparità di trattamento da parte di persone che vengono da culture diverse nei confronti delle donne, nei rapporti tra uomini e donne. Da più parti in Occidente, ma anche in Italia, si è ribadito che i nostri principi, al di là che poi succedano cose terribili anche con maschi nostrani, insomma, però che i principi sono quelli di uguaglianza, anche se la cancelliera Merkel ha detto, mi raccomando, non facciamone diventare questo episodio, seppur gravissimo, questi episodi sono stati in varie città della Germania, no, un motivo, un alibi per attaccare poi i profughi o i musulmani in genere. Senti, per chiudere, Raffaella Calandra, però mi pare che il ministro, non so se il ministro dell'interno, ha accusato comunque gli agenti di diversi errori, perché la polizia continua a essere anche un po' nel mirino per l'inadeguatezza con cui ha gestito, abbia... no? Che la polizia abbia sbagliato è stato evidente da subito. La polizia ha sbagliato nella gestione dei fatti, innanzitutto la notte di Capodanno, lasciandosi cogliere impreparata. Come ci aveva detto da subito un funzionario della Criminal Poll, nessuno di loro sapeva, e questo gli investigatori bravi devono saperlo, che sarebbero arrivati un migliaio di persone con intenzioni violente. Ha sbagliato allora, ha continuato a sbagliare nel momento in cui ha cercato di tenere sotto traccia e di coprire quello che era successo a Capodanno, tanto è vero che addirittura nella prima conferenza stampa avevano parlato di una situazione tranquilla, esatto, e ha continuato a sbagliare nel tentativo, in una serie di versioni che poi venivano smentite dai fatti, tanto è vero che il capo della polizia si è già dimesso, ma comunque le polemiche sulla gestione di questo dell'ordine pubblico continuano ad essere molto forti. Sì. Grazie Raffaella Calandra dalla Germania. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Ciao, buona continuazione. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself. Ancora le note di alcune canzoni di David Bowie, mentre continuano i vostri ricordi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso i messaggi al 349-238-6666. Luca da Roma per esempio scrive: alcuni brani di David Bowie sono stati importanti in una fase particolare della mia vita, in particolare Heroes, Sound of Vision and Vision, Wild is the Wind. Grazie David, l'ultimo capolavoro che ci ha lasciato è Where Are We Now del 2013. Mentre sulla pagina Facebook scrive Fabrizio: a Londra nel 2007 ho conosciuto una donna bellissima che aveva seconda casa in Maremma, mi disse di essere stata la prima fidanzatina di David Bowie quando entrambi avevano 16 anni in villeggiatura in Cornovaglia, e mi mostrò alcune Polaroid meravigliose, un ricordo indelebile, però che fortuna eccezionale. Vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti, a parte la scomparsa di David Bowie, che la Camera ha approvato il disegno di legge Boschi sulle riforme, adesso parte la battaglia referendaria per la politica italiana, caos al comune di Quarto, la sindaca perquisita, nel senso che ha fatto perquisizione alla Guardia di Finanza in casa sua, ma non decide per il momento sulle dimissioni, anche se Beppe Grillo dal suo blog chiede un passo indietro. Colonia, ne abbiamo appena parlato, c'è una caccia all'uomo, i musulmani denunciano minacce, e addio a David Bowie, ne appunto continua un po' il ricordo durante la trasmissione. Allarme della terra dei fuochi, il tumore uccide di più, è un allarme lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità, dicendo che anche ne sono colpiti i bambini di un anno di età, c'è un eccesso rispetto al resto della Campania. Per il calcio, Messi al suo quinto pallone d'oro. Europa 24 notte. Ritorniamo con l'appuntamento europeo. Il progetto di ampliamento del gasdotto, il Nord Stream, che porta gas dalla Russia alla Germania, passando sotto il Mar Baltico e saltando l'Ucraina, non risponderebbe agli obiettivi dell'Unione. Il 15 dicembre scorso il Parlamento europeo ha approvato un documento che boccia questo progetto. Non possiamo dipendere da un'unica fonte, anche per ragioni di sicurezza, afferma Flavio Zanonato, europarlamentare, membro della Commissione Industria, Ricerca e Energia, intervistato da Valeria De Rosa. Cos'è questo Nord Stream? È un tubo che parte dalla Russia e arriva in Germania attraversando il mare e quindi senza passare per altri paesi. Il tubo esiste già e si sta parlando del suo raddoppio. Parte dalla Russia e arriva in Germania. Il Parlamento ha votato no al raddoppio del Nord Stream. Perché? Beh, c'è una ragione politica, geopolitica. Perché in questo modo si indebolisce l'Ucraina e si fa un favore alla Russia. Il secondo motivo è che vogliamo una differenziazione per ragioni di sicurezza delle fonti da cui proviene una delle grandi materie con cui facciamo l'energia, cioè il metano. Non vogliamo comprarlo solo dalla Russia, ma lo vogliamo comprare anche da altri paesi. In questo senso l'Italia è molto interessata a un tubo che si chiama TAP, Trans Adriatic Pipeline, che si collega a un altro tubo che si chiama Nabucco, che attraversa l'Anatolia e che ci porterà il gas dall'Azerbaigian senza interferire con la Russia. Quindi diciamo lei è fiducioso sul fatto che anche dal punto di vista energetico, che poi è una materia fondamentale per l'Europa, si possa raggiungere un'unità? Intanto su questo documento abbiamo raggiunto l'unità ed è stata una cosa molto importante. Tenga presente che gli aspetti da considerare non erano soltanto questo. Allora, i problemi dell'energia sono, primo, dobbiamo avere lo stesso costo di energia in tutti i paesi europei, perché siamo un mercato unico e non possiamo pagare l'energia prezzi diversi. L'Italia è più cara, un altro paese meno soldi per comprarla, perché poi il prodotto, il manufatto risente del costo dell'energia e sarà più caro il manufatto che è stato costretto ad utilizzare un'energia più cara, una cosa evidente, no? Ma poi abbiamo il problema di una competizione mondiale e in questo caso abbiamo bisogno di un costo basso per tutti. L'aperta grande questione è che vogliamo rispettare l'ambiente e quindi ci sono tutta una serie di strategie per usare le energie più pulite e quindi anche su questo abbiamo detto cose molto importanti. Gli stati accetteranno questa posizione? Io questo non glielo so dire, però partiamo dal fatto che il Parlamento europeo ha preso una posizione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora questo ricordo, per esempio, di Giuseppe sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ricordando David Bowie, straordinario interprete, dice il suo esordio nel cinema, nel film di fantascienza, L'uomo che cadde sulla terra, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Tevis, dove David è uno straordinario alieno in cerca della sua compagna e della possibilità, insomma, di ritornare a casa. Ladies and gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi. Insomma, mi sembra un po' scontato, Giovanni Capuano, nessuna sorpresa per questo pallone d'oro. Abbastanza scontato, se consideri che il quinto di Leo Messi, che una settimana fa la FIFA, per sbaglio, aveva pubblicato per qualche minuto sul suo sito l'albo d'oro aggiornato al 2015, e quindi con dentro il nome di Messi, e se aggiungi che secondo è arrivato Cristiano Ronaldo e nelle ultime 7 edizioni, dal 2009 a oggi, i due, Messi e Cristiano Ronaldo, sono arrivati sempre o primi o secondi, tranne nel 2010, in cui secondo arrivò Iniesta ed era l'anno del Mondiale della Spagna. Quindi sì, diciamo che quando l'avete sentito Kakà, perché quella era la voce di Kakà, ex milanista, ex giocatore della nazionale brasiliana, ha letto il nome di Lionel Messi, si sono stupiti davvero in pochi. Tra parentesi c'è da dire che questo è veramente l'anno in cui non c'è da far polemica, nel senso che Messi ha vinto il triplete con il Barcellona, è stato protagonista della solita stagione strepitosa a livello personale e quindi dopo 2 anni di Cristiano Ronaldo torna a essere premiato come miglior giocatore del mondo e forse mette a segno l'allungo decisivo, nel senso che è il suo quinto pallone d'oro e dietro di lui ci sono Cristiano Ronaldo a quota 3 insieme a Platini, a Cruyff e a Van Basten. Questi ultimi tre non giocano più, quindi non potranno raggiungere Messi. Cristiano Ronaldo è a 2 palloni d'oro di distanza, però a 31 anni, insomma, comincia a diventare complicata anche per lui. E poi c'è la grande polemica della serata. La grande polemica della serata, perché è emerso che i due rappresentanti italiani che avevano diritto al voto in quanto selezionatore e capitano della nazionale, ovvero Antonio Conte e Gianluigi Buffon, non hanno espresso nessun voto per il pallone d'oro su ordine della Federcalcio. E questo perché la Federcalcio ha voluto marcare diciamo un certo dissenso dalla scelta della FIFA di escludere dal primo listone dei candidati, un listone di 59 giocatori di tutto il mondo, Gianluigi Buffon. C'erano dentro oggettivamente dei giocatori che meritavano molto meno, e quindi niente, c'è stata questa scelta abbastanza di rottura che ovviamente sta facendo discutere. Una bella ripicca, insomma. Esatto, si tratta diciamo di una ripicca, di un sabotaggio, non lo so, chiamatelo come volete, però così è successo. Così è successo. Grazie Giovanni Capuano, insomma, anche nel mondo del calcio, figuriamoci. Alle 22 ci sentiamo.